Quattordicesimo canto del Purgatorio, dalla Divina Commedia di Dante Alighieri. Registrazione di pubblico dominio effettuata per LibriVox da Filippo Gioachin. Purgatorio, quattordicesimo canto. Chi è costui che il nostro monte cerchia, prima che morte gli abbia dato il volo, e apre gli occhi a sua voglia e coverchia? Non so chi sia, ma so che non è solo. Domandal tu, che più li t'avvicini, e dolcemente sì che parli, accolo. Così due spirti, l'uno e l'altro chini, ragionavan di me ivi a man dritta, poi ferli visi per dirmi supini. E disse l'uno: o anima che fitta nel corpo ancora inver lo ciel ten vai, per carità ne consola e ne ditta, onde vieni e chi sei che tu ne fai tanto maravigliar della tua grazia, quanto vuol cosa che non fu più mai. E io, per mezza Toscana si spazia un fiumicel che nasce in Falterona, e 100 miglia di corso non sazia. Di sovresso rech'io questa persona, dirvi chi sia saria parlare indarno, che il nome mio ancor molto non suona. Se ben lo intendimento tuo accarno con lo intelletto, allora mi rispuose quei che diceva pria, tu parli d'Arno. E l'altro disse lui: perché nascose questi il vocabol di quella riviera, pur com'om fa dell'orribili cose? E l'ombra, che di ciò domandata era, si sdebitò così: non so, ma degno ben è che il nome di tal valle pera, che dal principio suo, ov'è sì pregno l'alpestro monte ond'è tronco peloro, che in pochi luoghi passa oltra quel segno, infin l'ave si rende per ristoro di quel che il ciel della marina asciuga, ond'hanno i fiumi ciò che va con loro, vertù così per nimica si fuga da tutti come biscia, o per sventura del luogo o per maluso che li fruga. Ond'hanno sì mutata lor natura gli abitator della misera valle, che par che Circe li avesse in pastura. Tra brutti porci più degni di galle che d'altro cibo fatto in umano uso, dirizza prima il suo povero calle. Botoli trova poi, venendo giuso, ringhiosi più che non chiede lor possa, e da lor disdegnosa torce il muso. Vassi caggendo, e quant'ella più ingrossa, tanto più trova di can farsi lupi la maladetta e sventurata fossa. Discesa poi per più pelaghi cupi, trova le volpi sì piene di froda che non temono ingegno che le occupi. Né lascerò di dir per ch'altri moda, e buon sarà costui s'ancor s'ammenta di ciò che vero spirito mi disnoda. Io veggio tuo nepote che diventa cacciator di quei lupi in su la riva del fiero fiume, e tutti li sgomenta. Vende la carne loro essendo viva, poscia li ancide come antica belva, molti di vita e sé di pregio priva. Sanguinoso esce della trista selva, lasciala tal che di qui a 1000 anni nello stato primaio non si rinselva. Come all'annunzio di dogliosi danni si turba il viso di colui ch'ascolta, da qual che parte il periglio l'assanni, così vid'io l'altr'anima che volta stava a udir turbarsi e farsi trista, poi ch'ebbe la parola a sé raccolta. L'odir de l'una e dell'altra la vista mi fer voglioso di saper lor nomi, e dimanda ne fei con prieghi mista, perché lo spirto che di pria parlomi ricominciò: tu vuo ch'io mi deduca nel fare a te ciò che tu far non vuomi, ma da che Dio in te vuol che traluca tanto sua grazia, non ti sarò scarso. Però sappi ch'io fui Guido del duca, fui il sangue mio d'invidia sì riarso, che se veduto avesse uom farsi lieto, visto m'avresti di livore sparso. Di mia semente cotal paglia mieto, o gente umana, perché poni il core l'ave il mestier di consorte divieto? Questi è Rinier, questi è il pregio e l'onore della casa da Calvoli, ove nullo fatto s'ereda poi del suo valore. E non pur lo suo sangue è fatto brullo tra il Po e il monte e la marina e il Reno, del ben richesto al vero e al trastullo, che dentro a questi termini è ripieno di venenosi sterpi, sì che tardi per coltivare omai verrebber meno. Ov'è il buon Lizio e Arrigo Mainardi, Pier Traversaro e Guido di Carpigna, o romagnuoli tornati in bastardi? Quando in Bologna un fabbro si ralligna, quando in Faenza un Bernardin di Fosco verga gentil di picciola gramigna, non ti maravigliar s'io piango tosco quando rimembro con Guido da Prata Ugolin d'Azzo che vivette nosco, Federigo Tignoso e sua brigata, la casa Traversara e gli Anastagi, e l'una gente e l'altra è diretata. Le donne e i cavalier, gli affanni e gli agi, che ne invogliava amore e cortesia, là dove i cuor son fatti sì malvagi. O Bretinoro, che non fuggi via, poiché gita se n'è la tua famiglia, e molta gente per non esser ria, ben fa Bagnacaval che non rifiglia, e mal fa Castrocaro e peggio Conio, che di figliar tai conti più s'impiglia. Ben faranno i pagan, da che il demonio lor sen girà, ma non però che puro giamai rimagna dessi testimonio. O Ugolin de Fantolin, sicuro è il nome tuo, da che più non s'aspetta chi farlo possa tralignando scuro. Ma va via tosco omai, cor mi diletta troppo di pianger più che di parlare, sì ma nostra ragion la mente stretta. Noi sapavam che quell'anime care ci sentivano andar, però tacendo facean noi del cammin confidare. Poi fummo fatti soli procedendo, folgore parve quando l'aere fende, voce che giunse di contra dicendo: anciderammi qualunque m'apprende, e fuggì come tuon che si dilegua se subito la nuvola scoscende. Come da lei l'udir nostro ebbe triegua, ed ecco l'altra con sì gran fracasso che somigliò tonar che tosto segua: io sono Aglauro che divenni sasso. E allor per ristrignermi al poeta in destro feci e non innanzi il passo. Già era l'aura d'ogni parte queta, ed el mi disse: quel fu il duro camo che dovria l'uom tener dentro a sua meta, ma voi prendete l'esca, sì che l'amo dell'antico avversaro a sé vi tira, e però poco val freno o richiamo. Chiamavi il cielo e intorno vi si gira, mostrandovi le sue bellezze eterne, e l'occhio vostro pura terra mira, onde vi batte chi tutto discerne. Fine del 14° canto del Purgatorio.